Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. I risultati del summit dei capi di Stato dell'Eurozona a Bruxelles, con le reazioni dei mercati, i commenti degli esperti, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano Mario Monti sono al centro dell'attualità economica europea della settimana. Ma ci sono anche le forti tensioni in Inghilterra, dove si è dimesso l'amministratore delegato di Barclays, Bob Diamond, in seguito allo scandalo che ha visto la banca multata per un tentativo di manipolazione del tasso interbancario. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa puntata di Economia in Europa. L'amministratore delegato della banca Barclays, Bob Diamond, ha subito forti pressioni dai parlamentari del Regno Unito, che ne hanno chiesto le dimissioni dopo che la banca da lui diretta è stata multata per 451 milioni di sterline, 563 milioni di euro. L'accusa? Il tentativo di manipolare il tasso interbancario dei prestiti LIBOR, indice di riferimento per calcolare il costo di 350 mila miliardi in prodotti finanziari. Barclays, la seconda banca del Regno Unito, che alla fine della scorsa settimana è arrivata a perdere oltre il 15%, ha annunciato con una nota ufficiale che Diamond e gli altri tre dirigenti del vertice rinunceranno ai bonus previsti per il 2012. Per Diamond il premio era fissato a 17 milioni di sterline. Giovedì 28 giugno abbiamo raccolto il commento di Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore a Londra. La regolazione del tasso interbancario, l'IBOR, è stata manipolata da Barclays, fatto lo hanno ammesso, e questo per dare un vantaggio, cioè per non far apparire Barclays una banca in maggiori difficoltà, in acque peggiori di quelle che erano, e per consentire ai trader di avere una copertura che non era, come dire, che non era reale. Questi due comportamenti sono stati al centro di questa indagine dell'FSA, cioè dell'authority inglese e americana, che ha portato a una multa di 453 milioni di dollari complessivi. Ricordiamo che l'IBOR regola gli scambi per 350 mila miliardi di dollari, cioè regola gli scambi planetari dell'interbancario. Il problema che si pone nello specifico riguarda in qualche modo il destino del top management di Barclays, perché finora non è uscito il nome di un responsabile. E lo stesso Bob Diamond, che è il CEO della banca, ha rinunciato generosamente al suo bonus, però non ha saputo indicare qual è la motivazione, cioè chi sono i responsabili ultimi di questi comportamenti. Sì. E sentiamo ora la dichiarazione del premier britannico David Cameron in merito a questa vicenda, sempre nella giornata di giovedì 28. È uno scandalo, è una situazione estremamente seria. È vero che hanno pagato giustamente una multa molto significativa, ma onestamente credo che tutto il gruppo dirigente debba rispondere a domande molto serie. Come è potuto accadere tutto ciò? Chi è il responsabile? Questi sono gli aspetti che devono essere chiariti e bisogna farlo il più rapidamente possibile. Su quello che avverrà dopo, penso che i regolatori dovrebbero usare tutti i poteri e tutti i mezzi a loro disposizione, nel modo che ritengono più opportuno. Voglio anche sottolineare che la vicenda è accaduta anni fa. C'era un altro governo e c'erano le regole che quel governo aveva fissato. Noi stiamo cambiando le regole e se bisogna fare di più per rafforzarle, allora lo faremo. Abbiamo già preso delle misure per regolare i servizi bancari e finanziari, ma se occorre fare di più, faremo di più. Tutto il gruppo dirigente deve rispondere a domande molto serie. Lasciamo che rispondano su chi è il responsabile, chi si prenderà la responsabilità di quanto è accaduto. Queste sono le domande a cui devono rispondere. Let them answer those questions first. Who was responsible? Who's going to take responsibility? Those questions need to be answered first. Marta

In passato la parola crescita faceva fatica a trovare spazio nei documenti dell'Unione Europea. Lo abbiamo sentito dalla voce dello stesso Monti, che ha espresso così la sua soddisfazione per il risultato del vertice. Monti ha inoltre portato l'attenzione sull'importanza degli investimenti pubblici nel conseguire questa crescita. Sentiamo. Vorrei inoltre segnalare l'importanza del riconoscimento del ruolo degli investimenti pubblici per la crescita. La Commissione, nella delibera del Consiglio europeo, la Commissione è invitata a monitorare gli effetti delle regole di disciplina dei bilanci sulla spesa per gli investimenti e a individuare margini per incentivare gli Stati membri a indirizzare la spesa verso investimenti pubblici produttivi e portatori di crescita futura. Di fatto si apre la strada ad una considerazione differenziata tra la spesa in conto corrente e la spesa in conto capitale nella valutazione del percorso degli Stati membri verso i loro obiettivi a medio termine dentro il patto di stabilità e di crescita. La logica, se non la formulazione precisa, è un po' quella della Golden Rule per la quale molti in Italia si sono sempre battuti. E sempre riferendo al Senato, Monti non ha evitato il tema degli eurobond che, stando alle dichiarazioni del premier italiano, non sono più un tabù. Il rapporto, che è molto stringato, ben strutturato e bilanciato, indica una serie di interventi necessari per correggere difetti di architettura dell'Unione economica e monetaria sotto l'aspetto dell'integrazione finanziaria, economica, fiscale e della governance democratica. È in questo quadro che sono affrontate le questioni che di nuovo fino a qualche mese fa sembravano un tabù, come gli eurobond, perché si parla, cosa che non ha fatto piacere proprio a tutti gli Stati membri, ma c'è nel documento, di un percorso verso emissioni in comune di titoli del debito pubblico. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.